Fate attenzione. Vi racconterò la storia del brutto anatroccolo, maltrattato da tutti, ma che alla fine scoprì d'essere un bellissimo cigno. Ma sentiamo per ordine come andarono i fatti. Il brutto anatroccolo. L'estate era splendida. Nel fossato del vecchio castello, dove la vegetazione era più folta, un'anatra aveva costruito il nido e covava indisturbata le sue uova. Un bel giorno, una dopo l'altra, le uova cominciarono a schiudersi e da ogni uovo sbucò un capino tutto giallo. Quanto è grande il mondo! Esclamavano i piccini che fino allora avevano conosciuto solo lo spazio limitato dal guscio dell'uovo. L'anatra li contò. Ci siete tutti? Chiese. E così dicendo si alzò dal nido, guardandosi attorno. Allora, con sua grande sorpresa, si accorse che l'uovo più grande era ancora intatto e si rimise a covare. Finalmente anche il grosso uovo si aprì. Pigolò il piccino e d'un balzo saltò fuori del guscio. Era molto grosso e anche molto brutto. L'anatra lo guardò con sospetto. Speriamo non sia un gallinaccio. Sospirò e per metterlo alla prova si tuffò nell'acqua, seguita da tutti i suoi piccoli. Tutti nuotavano magnificamente, ma anche il brutto anatroccolo non era da meno. No, no, non è un gallinaccio. Si rinfrancò la madre e decise di fare una visita alle comari anatre che vivevano nel cortile del castello. Che cos'è quel mostriciattolo? Le chiesero subito le anatre indicando il brutto anatroccolo e incominciarono a beccarlo sulla schiena senza pietà. Persino il cane gli abbaiò contro e un grosso tacchino incominciò a gonfiarsi, a fare la ruota e a rincorrerlo furioso facendo blu, blu, blu, blu, mentre i bargigli gli diventavano di un rosso scarlatto. Il povero anatroccolo non sapeva più che fare e alla fine, stanco di essere maltrattato, se ne fuggì attraverso la siepe. Quando giunse la sera, arrivò a una grande palude dove abitavano le anatre selvatiche e si nascose nel canneto. Passò la notte, ma prima che sorgesse il nuovo giorno, fu svegliato da molti spari. E un'anatra selvatica colpita a morte cadde proprio vicino a lui, arrossando di sangue l'acqua della palude. L'anatroccolo, tutto spaventato, se ne stava nascosto in mezzo alle canne quando vide venirgli incontro un grosso cane da caccia, con la lingua rossa penzolante tra i denti e due occhi che mandavano fiamme. Sono perduto! Pensò. Invece il cane andò verso l'anatra selvatica uccisa, la prese in bocca e scomparve. Quando il sole fu alto, gli spari cessarono e il brutto anatroccolo ne approfittò per scappare. Cammina, cammina, arrivò a una misera casupola. Dentro c'erano una vecchia, un gatto e una gallina. La vecchia era molto orgogliosa del suo gatto perché sapeva fare le fusa, ma amava soprattutto la gallina perché le faceva le uova. Il brutto anatroccolo si accovacciò inosservato in un angolo. Ma la mattina dopo la gallina lo vide per prima e gli chiese: che fai tu qui? Sai fare le uova? No, rispose il brutto anatroccolo. E sai fare le fusa? Gli chiese il gatto che stava giungendo in quel momento. No, rispose il brutto anatroccolo. E allora vattene via subito di qui! Strillarono insieme ed egli dovette riprendere il cammino. Venne l'autunno. Le foglie degli alberi ingiallivano e cadevano al suolo. Il corvo saltellava gracchiando per il freddo. Il povero anatroccolo era molto triste. Una sera, mentre il sole stava tramontando, comparve nel cielo uno stormo di grandi, bellissimi uccelli bianchi, dal collo lungo e flessuoso. Erano cigni. Il brutto anatroccolo li guardava stupito e pensava: oh, se anch'io potessi volare come loro! E invece venne l'inverno e il poveretto rimase preso nella morsa del freddo e del ghiaccio. Stava per morire quando un contadino lo vide e lo portò a casa, dove il calduccio lo fece rinvenire. Ma i figli del contadino, volendo giocare con lui, lo spaventarono a tal punto che egli prese a starnazzare per la casa rovesciando bottiglie e scodelle, sicché la moglie del contadino, persa la pazienza, lo scacciò di casa a colpi di scopa. Intanto l'aria incominciava a farsi più tiepida. Il brutto anatroccolo sbatté le ali e di colpo si accorse che riusciva a volare. Prima ancora che potesse riaversi dalla sorpresa, egli si trovò sopra un grande parco al cui centro vi era un laghetto, dove nuotavano quei meravigliosi uccelli bianchi che aveva visto volare. Come sono belli! Pensò. Voglio andare da loro, che mi becchino pure. Meglio essere uccisi da loro che essere maltrattati dalle anatre. E così fece. Si accostò a nuoto a due grandi cigni e mormorò. Oh sì, uccidetemi, uccidetemi pure! E chinò la testa sull'acqua in attesa del colpo mortale. Ma che cosa vide nel limpido specchio dell'acqua? Vide riflessa la propria immagine, che non era più quella goffa d'un brutto anatroccolo. No, anch'egli, oh miracolo, era diventato un cigno, un candido e bellissimo cigno. Vi è piaciuta la storia? E allora sappiate che oltre al brutto anatroccolo ne conosco molte altre. Biancaneve, Pollicino, Cenerentola e così via. Le volete sentire? Ditelo alla vostra mamma. Sono tutte fiabe per voi.